Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Lo squillo di un campanello nella stanza chiamò Mr. Jackson nell'ufficio di Fogg, dal quale l'impiegato ritornò per dire che lui, Fogg, era pronto a ricevere Mr. Pickwick se questi voleva salire al piano di sopra. Di conseguenza, Mr. Pickwick salì le scale, lasciando Sam Weller da basso. Sulla porta della stanza al primo piano c'erano scritte in caratteri chiaramente leggibili le solenni parole «Mr. Fogg». E dopo aver bussato e ricevuto l'autorizzazione ad entrare, Jackson introdusse Mr. Pickwick. «È in ufficio, Mr. Dodson?» chiese Mr. Fogg. «È appena arrivato», rispose Jackson. «Chiedetegli di venire qui». «Sì, signore». Jackson esce. «Sedetevi, prego», disse Fogg. «Questa è la vostra pratica, signore. Il mio socio arriverà subito e potremo parlare della questione». Mr. Pickwick prese una sedia e la pratica, ma invece di leggere quest'ultima sbirciò al di sopra di essa per dare un'occhiata all'avvocato, che era un uomo anziano, un tipo di vegetariano dalla faccia foruncolosa, vestito con una giacca nera, calzoni scuri fantasia e ghette nere. Un essere che sembrava costituire parte essenziale dello scrittoio a cui sedeva e non avere più cuore o più cervello di esso. Dopo pochi minuti di silenzio comparve Mr. Dodson, un uomo grasso, pesante, dall'espressione dura e dalla voce forte, e la conversazione incominciò. «Questo è Mr. Pickwick», disse Fogg. «Ah, voi siete il convenuto della causa Bardell e Pickwick», disse Dodson. «Eh sì», disse Mr. Pickwick. «Bene, signore», disse Dodson. «E che cosa siete venuto a proporre?» «Già», disse Fogg, cacciandosi le mani in tasca e allungandosi contro lo schienale della sedia. «Che cosa siete venuto a proporre, Mr. Pickwick?» «Zitto, Fogg», disse Dodson. «Lasciatemi ascoltare quel che ha da dire Mr. Pickwick». «Io sono venuto qui, signori», disse Mr. Pickwick, guardando placidamente i due soci. «Io sono venuto qui per esprimere la sorpresa con la quale ho ricevuto la vostra lettera di qualche giorno fa e per chiedere su quali basi potete agire contro di me». «Su quali basi?» stava sbottando Fogg, ma fu interrotto da Dodson. «Mr. Fogg», disse Dodson, «sto per parlare io». «Scusate, Mr. Dodson», disse Fogg. «Quanto alle basi dell'azione, signore», continuò Dodson con un'aria di grande elevatezza morale, «voi consulterete la vostra coscienza e i vostri sentimenti. Noi, signore, da parte nostra, siamo guidati esclusivamente dalle affermazioni della nostra cliente. Queste affermazioni, signore, possono essere vere o possono essere false, possono essere credibili o incredibili, ma se sono vere e credibili, non esito a dire, signore, che le basi della nostra azione sono forti e capaci di reggere a qualsiasi attacco. Può darsi, signore, che siate solo un uomo sfortunato, come può darsi che siate un uomo subdolo. Ma se mi fosse chiesto di esprimere sotto giuramento, come membro di una giuria, la mia opinione sulla vostra condotta, io non esito, signore, ad affermare che potrei esprimere una sola opinione su di essa». A questo punto Dodson si impettì con l'aspetto della virtù offesa e guardò Fogg, che cacciò le mani ancor più giù nelle tasche e, annuendo saggiamente con la testa, disse col tono della più completa approvazione: «Certissimamente!» «Ebbene, signore», disse Mr. Pickwick con espressione molto addolorata, «voi mi permetterete di assicurarvi che sono stato solo sfortunato e molto in tutta questa faccenda». «Spero che sia vero, signore», rispose Dodson. «Credo che possa essere vero. Se siete realmente innocente della colpa di cui siete accusato, voi siete più sfortunato di quanto credessi umanamente possibile. Che cosa dite voi, Fogg?» «Esattamente quello che dite voi», rispose Fogg con un risolino incredulo. «L'atto di citazione che apre il processo», continuò Dodson, «è stato emesso regolarmente. Mr. Fogg, dov'è il precipe?» «Eccolo», disse Fogg, allungandogli sopra la tavola un librone quadrato rilegato in carta pecora. «Ecco la registrazione», ricominciò Dodson. «Middlesex, Attore Martha Bardell, vedova, contro Samuel Pickwick, convenuto. Danni, lire sterline 1500. Dodson e Fogg per la querelante. 28 agosto 1830. Tutto regolare, signore, assolutamente. Dodson tossì e dette uno sguardo a Fogg che disse assolutamente anche lui. Poi tutti e due guardarono Mr. Pickwick. Debbo ritenere, dunque, disse Mr. Pickwick, che è davvero vostra intenzione mandare avanti la causa? Ritenere? Certo che lo dovete, rispose Dodson con qualcosa di tanto simile a un sorriso quanto era consentito dalla sua importanza. E i danni sono veramente fissati a 1500 sterline. Quanto a questo, vi posso assicurare che se la nostra cliente avesse seguito il nostro consiglio, vi sarebbe stata chiesta una cifra 3 volte superiore, rispose Dodson. Credo tuttavia, osservò Fogg con un'occhiata a Dodson, che la signora Bard l'abbia tenuto a sottolineare che non avrebbe accettato un soldo di meno. Ah, senza dubbio, rispose Dodson seccamente. La causa era appena incominciata e non sarebbe stato conveniente cercare un compromesso con Mr. Pickwick, anche se questi fosse stato disposto ad accettarlo. Dato che non avete nulla da proporci, signore, disse Dodson, svolgendo un foglio di pergamena con la mano destra e porgendo affettuosamente a Mr. Pickwick una copia in carta semplice con la sinistra, sarà meglio che vi dia una copia della citazione, signore. Qui c'è l'atto originale. Molto bene, signori, molto bene, disse Mr. Pickwick alzandosi e andando in collera nello stesso tempo. Avrete notizie dal mio avvocato, signori. Ne saremo felicissimi, disse Fogg fregandosi le mani. Veramente, disse Dodson aprendo la porta. E prima di andare, signori, disse Mr. Pickwick molto eccitato voltandosi indietro sul pianerottolo, permettetemi di dire che di tutte le imprese sciagurate e furfantesche... Un momento, signore, un momento, interruppe Dodson con grande cortesia. Mr. Jackson? Mr. Wicks? Sì, signore, dissero i due impiegati comparendo in fondo alle scale. Desidero soltanto che ascoltiate le parole di questo signore, rispose Dodson. Prego, continuate, signore. Stavate dicendo imprese sciagurate e furfantesche, no? Sì, disse Mr. Pickwick completamente fuori di sé. Dicevo, signore, che di tutte le imprese sciagurate e furfantesche che furono mai concepite, questa è la peggiore. E lo ripeto. Avete udito, Mr. Wicks? Disse Dodson. Non dimenticherete queste espressioni, Mr. Jackson? Disse Fogg. Forse vi piacerebbe chiamarci truffatori, disse Dodson. Prego, fatelo pure, signore, se lo desiderate. Fatelo pure, vi prego. Certo che lo faccio, disse Mr. Pickwick. Siete solo dei truffatori. Benissimo, disse Dodson. Spero che sentiate bene laggiù, Mr. Wicks. Oh, sì, signore, disse Wicks. Se no, sarà meglio che saliate a un gradino o due, soggiunse Fogg. Proseguite, signore, avanti, avanti, proseguite. Vi piacerebbe chiamarci ladri? O preferireste saltare addosso a uno di noi? Prego, signore, fatelo se vi aggrada. Noi non opporremo la minima resistenza. Fatelo dunque. E poiché Fogg si era messo in modo molto provocante entro il raggio dei pugni di Mr. Pickwick, è molto probabile che questi avrebbe accolto quell'ardente preghiera se non fosse intervenuto Sam, che sentendo il rumore della disputa uscì dall'ufficio a pian terreno, salì le scale e prese il suo padrone per un braccio. «Venite via», disse Mr. Weller. «Giocare al volano è molto divertente quando il volano non siete voi le racchette due avvocati, perché in questo caso dà troppa eccitazione per essere piacevole. Venite via, signore, se volete alleggerirvi lo spirito prendendo a pugni qualcuno, uscite fuori e prendete a pugni me». Ma qui sarebbe troppo dispendioso continuare. E senza far cerimonia, Mr. Weller trascinò il suo padrone giù per le scale. Lo fece uscire all'aperto e quando fu in salvo in mezzo alla strada, lasciò la presa e gli si mise dietro, pronto a seguirlo dovunque volesse andare. Thank you. Mr. Pickwick e Sam trovarono per il momento un'ottima sistemazione, comoda e all'antica, all'albergo e trattoria Giorgio e Avvoltoio, George Yard, Lombard Street. Mr. Pickwick aveva cenato, bevuto due pinte di porto speciale, si era tirato il fazzoletto di seta sulla testa, aveva messo i piedi davanti al fuoco e si era sdraiato in poltrona, quando Mr. Weller, entrando con una valigia, lo riscosse dalle sue tranquille meditazioni. «Sam?» disse Mr. Pickwick. «Signore?» disse Mr. Weller. «Stavo pensando, Sam», disse Mr. Pickwick, «che ho lasciato una quantità di cose dalla signora Bardell in Goswell Street e dovrei portarle via prima di lasciare la città un'altra volta». «Benissimo, signore», rispose Mr. Weller. «Potrei metterle in casa di Mr. Tupman momentaneamente», continuò Mr. Pickwick, «ma prima di portarle via sarà necessario cercarle e radunarle. Vorrei che faceste una corsa in Goswell Street, Sam, e vi occupaste di tutto». «Subito, signore?» chiese Mr. Weller. «Subito», rispose Mr. Pickwick. «E aspettate un momento, Sam», aggiunse Mr. Pickwick tirando fuori il borsellino. «C'è l'affitto da pagare. Il trimestre scade solo a Natale, ma preferisco pagarlo e chiudere subito i conti. Disdico l'appartamento con regolare preavviso di un mese. Eccolo, scritto e firmato. Datelo alla signora Bardell e ditele che può cercarsi un nuovo inquilino, anche subito». «Benissimo, signore», rispose Mr. Weller. «Nient'altro, signore?» «Nient'altro, Sam». Mr. Weller si avviò lentamente alla porta, come se si aspettasse qualcos'altro. L'aprì lentamente, uscì ancora più lentamente e l'aveva richiusa piano piano fino a lasciare uno spiraglio di due pollici quando Mr. Pickwick chiamò. «Sam?» «Signore?» disse Mr. Weller rientrando di colpo e chiudendo la porta dietro di sé. «Non ho niente in contrario, Sam, che cerchiate di capire quali siano le intenzioni della signora Bardell nei miei riguardi e se ci sia veramente il pericolo che questo vile e infondato processo sia portato fino in fondo. Non ho niente in contrario che lo facciate, Sam, se volete, si capisce», disse Mr. Pickwick. Sam fece un cenno d'intesa e lasciò la stanza. Mr. Pickwick si tirò ancora il fazzoletto di seta sulla testa, disponendosi a fare un pisolino, e Mr. Weller uscì subito a eseguire la sua commissione. Erano circa le 9 quando arrivò in Goswell Street. Due candele ardevano nel salottino che dava sulla strada e si vedeva l'ombra di due cappellini sulla persiana della finestra. La signora Bardell aveva visite. Mr. Weller bussò alla porta e dopo un certo tempo che gli interessati occuparono quello di fuori a fischiare un motivetto, quello di dentro a convincere una candela ribelle a lasciarsi accendere, un paio di stivaletti scalpicciarono sul tappeto e il signorino Bardell fece la sua comparsa. «Ehi, furfantello!» disse Sam. «Come sta la mamma?» «Bene, grazie», rispose il signorino Bardell. «E anch'io!» «Bene, è una vera fortuna», disse Sam. «Allora dille per favore che dovrei parlarle. Piccolo fenomeno!» Il signorino Bardell a questa richiesta posò la candela ribelle sull'ultimo scalino e scomparve nel salotto a riferire il messaggio. I due cappellini che proiettavano le loro ombre sulla persiana erano posati sulle rispettive teste di due intime amiche della signora Bardell, venute appunto per prendere una tazza di tè e una cenetta calda a base di zampini di maiale e formaggio fondente. Il formaggio stava liquefacendosi e prendendo un colorito molto appetitoso in una casseruola messa sul fuoco. Gli zampini cuocevano a meraviglia in una piccola pentola sul fornello e la signora Bardell e le due amiche chiacchieravano tranquillamente di amici e conoscenti loro quando tornò il signorino Bardell, che era stato ad aprire la porta recando il messaggio affidatogli da Mr. Samuel Weller. «Il servitore di Mr. Pickwick?» disse la signora Bardell diventando pallida. Thank you. signora Clappins era una donnetta vivace e sempre in movimento. La signora Sanders era grossa, grassa e col volto carnoso, ed erano appunto le due signore in visita. La signora Bardell ritenne opportuno mostrarsi agitata, e siccome nessuna delle tre sapeva bene se, nella situazione attuale, non fosse meglio rifiutarsi di avere alcun rapporto col servitore di Mr. Pickwick, se non tramite Dodson e Fogg, non sapevano che pesci pigliare. In questo stato di incertezza, ovviamente, la prima cosa da farsi era di dare 4 scapaccioni al bambino che aveva trovato Mr. Weller alla porta. La madre glieli diede e il bambino strillò melodiosamente. «Non strillare adesso, ragazzaccio!» disse la signora Bardell. «Sì, non tormentare la tua mammina!» disse la signora Sanders. «Ne ha già abbastanza di fastidi senza che ti ci metta anche tu, Tommy!» disse la signora Clappins con aria pietosa. «Non potrebbe essere più sfortunata, povera innocente!» disse la signora Sanders. A tutte queste riflessioni morali, il signorino Bardell urlava ancora più forte. «E adesso, cosa devo fare?» disse la signora Bardell alla signora Clappins. «Secondo me dovreste vederlo», rispose la signora Clappins, «ma alla presenza di un testimonio in ogni caso». «Ah, secondo me sarebbe più legale se i testimoni fossero 2», disse la signora Sanders, che come l'altra amica ardeva dalla curiosità. «Allora sarà meglio farlo entrare qui», disse la signora Bardell. «Sicuro», rispose la signora Clappins, afferrando al volo l'idea. «Entrate, giovinotto, e chiudete la porta di strada, per favore». Mr. Weller obbedì prontamente e, presentandosi in salotto, fece la sua commissione alla signora Bardell con queste parole. «La ragione per cui sono venuto è presto detta», disse Sam. «Primo, per portarvi la disdetta del mio padrone. Eccola. Secondo, per pagarvi la pigione. Prendete. Terzo, per dirvi di radunare tutta la sua roba e consegnarla alla persona che verrà a prenderla. Quarto, che potete cercarvi un nuovo inquilino anche subito. E questo è tutto». «Qualsiasi cosa sia accaduta», disse la signora Bardell, «io ho sempre detto e sempre dirò che, tranne in un solo caso, Mr. Pickwick si è sempre comportato come un perfetto gentiluomo. Nelle questioni di denaro è sempre stato preciso come una banca, sempre». Così dicendo, la signora Bardell si portò agli occhi il fazzoletto e uscì dalla stanza per prendere la ricevuta. «Ecco la ricevuta, Mr. Weller», disse la signora Bardell. «Ed ecco il resto. E spero che accetterete un goccio di qualcosa per combattere il freddo, non fosse che per la nostra vecchia conoscenza, Mr. Weller». Sam capì che poteva trarre qualche vantaggio e subito accettò. E la signora Bardell prese da un armadietto una bottiglia di vino e un bicchiere, ma era così distratta dalla sua profonda sofferenza spirituale che, dopo aver riempito il bicchiere di Mr. Weller, ne tirò fuori altri 3 e riempì anche quelli. «Guardate, signora Bardell», disse la signora Clappins, «guardate che cosa avete fatto!» «Ma questa è bella!» esclamò la signora Sanders. «Oh, la mia povera testa!» disse la signora Bardell con un pallido sorriso. Sam capì al volo, naturalmente, e disse subito che non beveva mai prima di cena se una signora non beveva con lui. Seguirono molte risate e la signora Sanders offrì di sacrificarsi e bevve un sorsettino dal suo bicchiere. Allora Sam disse che tutte dovevano unirsi e tutte bevvero un sorsettino. Poi la piccola signora Clappins propose un brindisi al successo della causa Bardell contro Pickwick. Tutte le signore vuotarono i bicchieri per fare onore al brindisi e divennero immediatamente molto discorsive.